Capitolo 116. Ifigenia in Tauride. Sempre inseguito dalle erinni che erano rimaste sorde all'eloquente perorazione di Atena, Oreste si recò a Delfi, dove si gettò bocconi sulla soglia del tempio e minacciò di togliersi la vita se Apollo non lo avesse liberato dalle sue persecutrici. La Pizia gli ordinò allora di veleggiare oltre il Bosforo fino al Mar Nero. I suoi tormenti avrebbero avuto fine soltanto quando egli si fosse impadronito dell'antichissima statua lignea di Artemide nel Chersoneso taurico per riportarla ad Atene o, secondo altri, nell'Argolide. Ora il re dei Tauri era Toante dai piedi piatti, figlio di Dioniso e di Arianna e padre di Ipsipile, e il suo popolo così chiamato perché un tempo Osiride piegò i tori al giogo e arò la loro terra, discendeva dal ceppo scitico. Oggi i Tauri vivono ancora di rapina, come ai tempi di Toante, ogni volta che uno dei loro guerrieri cattura un prigioniero, lo decapita, ne porta la testa a casa e la conficca su un alto palo sopra il camino, affinché la sua famiglia possa vivere sotto la protezione del morto. Inoltre i marinai scampati ai naufragi o spinti sino a quel lido dalle tempeste vengono pubblicamente sacrificati ad Artemide Taurica. Dopo aver compiuto alcuni riti preliminari, i Tauri abbattono la vittima a colpi di bastone e ne inchiodano la testa recisa su una croce. In seguito il corpo viene sepolto oppure gettato in mare da un dirupo che il tempio di Artemide sovrasta. Ma ogni principe straniero che cada nelle loro mani viene ucciso con la spada da una sacerdotessa vergine della dea. Essa ne brucia il corpo su un fuoco sacro che sale dal Tartaro e arde nel recinto del tempio. Altri tuttavia dicono che la sacerdotessa, pur dirigendo la cerimonia e compiendo i riti lustrali preliminari, non uccide la vittima con le sue mani. L'antico simulacro della dea che Oreste aveva ricevuto l'ordine di rapire era caduto laggiù dal cielo. Il tempio è sorretto da grandi colonne e vi si accede per 40 gradini. Il suo altare di marmo bianco è costantemente macchiato di sangue. Artemide Taurica ha molti appellativi in Grecia, tra i quali ricorderemo Artemide Tauropolo o Tauropola, Artemide di Tinna, Artemide Ortia, Artemide Toanzia, Ecate, e per i latini essa è Trivia. Ora Ifigenia era stata sottratta al sacrificio in Aulide da Artemide, che la avvolse in una nuvola e la trasportò nel Chersoneso taurico, dove subito fu eletta grande sacerdotessa. A lei soltanto spettava di diritto di toccare la sacra immagine della dea. I Tauri perciò la invocavano come Artemide o Ecate o Orsiloca. Ifigenia non poteva sopportare i sacrifici umani, ma piamente obbediva agli ordini della dea. Oreste e Pirade non erano a conoscenza di tutto ciò. Essi credevano ancora che Ifigenia fosse morta in Aulide, sgozzata dal coltello sacrificale. Tuttavia si affrettarono verso la terra dei Tauri su una nave a 50 remi. Appena giunti, lasciarono la nave all'ancora e si nascosero in una grotta marina. Era loro intenzione avvicinarsi al tempio a notte fonda, ma furono sorpresi da alcuni mandriani ingenui che, credendoli i Dioscuri o chissà quale altra coppia di dei immortali, caddero in ginocchio e li adorarono. In quella congiuntura Oreste impazzì di nuovo, muggendo come un vitello e abbaiando come un cane. Un branco di manzi gli parve la torma delle erinni ed egli si precipitò fuori della grotta con la spada in mano pronto a sgozzarli, al che i mandriani, ricredutisi, ebbero ben presto la meglio sui due amici e, seguendo gli ordini di Toante, li trascinarono al tempio per esservi subito sacrificati. Durante i riti preliminari, Oreste conversò in greco con Ifigenia. Ben presto e con palese letizia scoprirono la loro identità e, saputa quale fosse la missione di Oreste, Ifigenia prese tra le mani il simulacro della dea per affidarglielo. All'improvviso però apparve Toante, spazientito per il prolungarsi della cerimonia, e con grande prontezza Ifigenia finse di essere intenta a placare la dea. Spiegò a Toante che Artemide aveva distolto lo sguardo dalle vittime a lei presentate, poiché uno di essi era matricida e l'altro suo complice, ambedue dunque del tutto indegni del sacrificio. Essa li avrebbe portati sulla riva del mare assieme al simulacro della dea e colà li avrebbe lavati nelle onde, offrendo poi ad Artemide un sacrificio notturno di giovani agnelli. Frattanto Toante doveva purificare il tempio con una torcia, coprirsi il capo al passaggio dei due stranieri e ordinare che tutti rimanessero chiusi in casa per non essere contaminati. Toante, tratto in inganno, per qualche minuto rimase perso in ammirazione di tanta sagacia e poi cominciò la purificazione del tempio. Frattanto Ifigenia, Pilade e Oreste portarono la statua sulla riva del mare al lume delle torce, ma anziché immergerla tra le onde, la caricarono in gran fretta sulla nave. I servi del tempio, che li avevano accompagnati, sospettarono l'inganno e diedero di piglio alle armi. Furono sopraffatti dopo un'aspra zuffa e tosto i marinai di Oreste spinsero la nave al largo. Un vento improvviso tuttavia li scagliò verso la riva rocciosa e sarebbero tutti periti se Posidone non avesse placato i marosi per preghiera di Atena. Poi, con l'aiuto di una brezza favorevole, raggiunsero l'isola di Smento. Colà vivevano Crise, sacerdote di Apollo, e un suo nipote dallo stesso nome. La madre di costui, Criseide, propose di consegnare i fuggiaschi a Toante. Infatti, benché secondo taluni Atena si fosse recata da Toante, che stava allestendo una flotta per l'inseguimento, e l'avesse blandito tanto da indurlo a lasciar rimpatriare sane e salve le schiave greche di Ifigenia, è certo che il re dei Tauri giunse a Sminto con pessime intenzioni. Allora Crise il vecchio, conosciuta l'identità dei suoi ospiti, rivelò a Crise il giovane che egli non era figlio di Apollo, come Criseide aveva sempre sostenuto, bensì di Agamennone, e dunque fratellastro di Oreste e di Ifigenia, al che Crise e Oreste affrontarono a fianco Toante e riuscirono a ucciderlo. E Oreste, con il simulacro della dea, approdò sano e salvo a Micene, dove le erinni finalmente rinunciarono a tormentarlo. Alcuni invece dicono che la tempesta spinse Oreste a Rodi, dove, obbedendo all'oracolo del sole, egli innalzò la statua di Artemide sulle mura della città. E secondo altri, poiché l'Attica era la regione dove egli doveva recare il simulacro per ordine di Apollo, Atena gli apparve a Sminto e gli consigliò di raggiungere Braurone. Colà la statua sarebbe stata posta nel tempio di Artemide Tauropolo e placata col sangue sgorgato dalla gola di un uomo. Atena designò Ifigenia come sacerdotessa di quel tempio, dove avrebbe chiuso in pace i suoi giorni. Le offerte di rito dovevano comprendere gli abiti delle ricche matrone morte di parto. Secondo questa leggenda, la nave finalmente entrò nel porto di Braurone, dove Ifigenia depositò la statua e poi, mentre si stava costruendo il tempio, si recò con Oreste a Delfi. Incontrò Elettra nel santuario e la ricondusse ad Atene perché sposasse Pilade. A Braurone si può ancora ammirare quella che è ritenuta l'autentica statua lignea di Artemide Taurica. Taluni tuttavia sostengono che si tratti soltanto di una copia, mentre l'originale fu sottratto da Serse durante la sua sciagurata spedizione contro la Grecia e portato a Susa. In seguito, essi aggiungono, fu donata da re Seleuco di Siria agli abitanti di Laodicea, che ancora oggi la onorano. Altri invece, pur di non dar credito a Serse, dicono che Oreste stesso, sulla strada del ritorno dal Chersoneso Taurico, fu spinto da una tempesta nella regione ora chiamata Seleucia, dove lasciò il simulacro, e che gli abitanti del luogo, in suo ricordo, mutarono il nome del Monte Melanzio in quello di Monte Amanone, che significa non pazzo, quando Oreste recuperò la ragione. Ma i Lidi, che vantano il santuario di Artemide Anaitide, rivendicano il possesso del simulacro e così pure i cittadini di Comana in Cappadocia, che pare prenda il suo nome dalle funebri trecce, comai, che Oreste depose laggiù, quando portò in Cappadocia il culto di Artemide Tauropolo. Altri ancora dicono che Oreste nascose il simulacro tra fascine di legna e lo trasportò ad Ariccia, in Italia, dove egli stesso morì e fu sepolto, mentre poi le sue ossa vennero traslate a Roma, e che il simulacro fu rimandato da Ariccia a Sparta perché la crudeltà dei riti dispiacque ai romani, e a Sparta fu posto nel santuario di Artemide Eretta. Ma gli spartani sostengono che quel simulacro era di loro proprietà molto tempo prima della fondazione di Roma, poiché Oreste lo portò con sé quando divenne re di Sparta e lo nascose in un boschetto di salici. Per secoli, essi dicono, ci si scordò della sua esistenza, finché un giorno a Strabaco e a Lopeco, due principi della casa reale, capitati per caso nel boschetto, impazzirono al vedere quell'orrenda statua avviluppata in rami di salice che la tenevano ritta, dai cui i suoi appellativi di Ortia e Ligodesma. Non appena la statua fu portata a Sparta, una funesta rivalità si scatenò tra i devoti di Artemide che stavano sacrificando dinanzi al suo altare. Molti di loro furono uccisi nel santuario stesso, altri morirono di peste poco dopo. Quando un oracolo ammonì gli spartani a propiziarsi la dea, irrorandone l'altare con sangue umano, essi estrassero a sorte una vittima e la sacrificarono. La cerimonia si ripeté ogni anno, finché il re Licurgo, che aborriva dai sacrifici umani, la proibì e ordinò invece che alcuni giovanotti fossero fustigati presso l'altare finché questo si coprisse di sangue. I ragazzi spartani ora gareggiano una volta all'anno per vedere chi resiste più a lungo ai colpi. La sacerdotessa di Artemide assiste alla cerimonia reggendo la statua della dea. Pur essendo piccola e leggera, tale statua è divenuta così avida di sangue da quando i tauri le offrivano sacrifici umani che ancora oggi, se i fustigatori maneggiano lo scudiscio con cautela, perché il ragazzo è nobile o eccezionalmente bello, si fa all'improvviso pesantissima e la sacerdotessa, reggendola a stento, grida ai fustigatori: più forte, mi trascinate a terra!» Poco credito va concesso alla leggenda che Elena e Menelao partirono alla ricerca di Oreste, giunti in Tauride, poco dopo di lui, furono ambedue sacrificati alla dea da Ifigenia. In questa vicenda, nelle sue varianti, appare chiara l'ansia dei mitografi di velare certe barbare tradizioni. Tra i particolari soppressi vi sono la vendetta di Artemide su Agamennone per l'assassinio di Ifigenia e la vendetta di Eace, sempre su Agamennone, per l'assassinio di suo fratello Palamede. In origine pare che il mito suonasse pressappoco così. Agamennone fu costretto dai suoi compagni d'arme a sacrificare la figlia Ifigenia come strega quando la spedizione dei Greci contro Troia rimase bloccata in Aulide dai venti contrari. Artemide, di cui Ifigenia era sacerdotessa, fece pagare ad Agamennone quell'insulto, aiutò Egisto a soppiantarlo e ad assassinarlo al suo ritorno da Troia. Sempre per consiglio della dea, Eace si offrì di guidare Oreste verso la terra formata dal limo dello Scamandro, dove sarebbe sfuggito alle Erinni, perché laggiù Atena l'avrebbe protetto. Invece lo condusse a Braurone, dove Oreste fu accolto come l'annuale Farmacos, la vittima designata per espiare le colpe collettive del popolo, e la vergine sacerdotessa di Artemide gli tagliò la gola. Eace poi disse la verità a Elettra quando si incontrarono a Delfi, e cioè Oreste era stato sacrificato da Ifigenia, che pare fosse un appellativo di Artemide. Ai greci patriarcali di un'epoca più tarda questo mito dispiacque, e una versione che fa di Menelao anziché di Oreste l'oggetto della vendetta di Artemide è citata da Fozio. Essi assolsero Agamennone per il suo delitto e con lui Artemide per essersi opposta alla volontà di Zeus, dicendo che indubbiamente la dea aveva salvato Ifigenia portandola via con sé ed eleggendo la sua sacerdotessa non in Braurone ma tra i lontani Tauri, popolo selvaggio delle cui azioni i greci non si sentivano responsabili. E che Artemide non uccise Oreste, né altra vittima greca del resto, ma anzi lo aiutò a riportare in Grecia il suo simulacro secondo gli ordini di Apollo. Questa leggenda modificata per salvare la faccia rivela influenze del mito della spedizione di Giasone nel Mar Nero. Secondo Servio, Oreste ruba il simulacro nella Colchide e non nel Chersoneso Taurico. E spiega come mai una vittima umana venisse sgozzata a Braurone. In seguito il rito fu modificato e ci si limitò a estrarre una goccia di sangue da una ferita superficiale. Cerimonie analoghe si svolgevano a Micene, Ariccia, Rodi e Comana. Tauropolo fa pensare al sacrificio cretese del toro, che sopravvisse nelle bufonie ateniesi. In origine la vittima era probabilmente il re sacro. I riti di fertilità che un tempo si dice implicavano sacrifici umani si svolgevano a Sparta in onore di Artemide Eretta. A giudicare da analoghi riti primitivi praticati in altre regioni del Mediterraneo, la vittima era legata al simulacro della dea con cortecce di salici impregnate di magici influssi lunari. Il simulacro era costituito da un ceppo di albero sacro, probabilmente di pero. La vittima veniva frustata finché i flagelli provocavano una reazione erotica e il flagellato eiaculava, fertilizzando la terra con sperma e sangue. Il nome di Alopeco e la ben nota leggenda del giovane che si lasciò divorare i genitali da una volpe piuttosto che invocare aiuto ci lascia supporre che la dea volpe di Teumessa fosse venerata anche a Sparta. Onori divini venivano spesso tributati alle meteoriti e anche a piccoli oggetti rituali di dubbia origine, ma che forse si credeva fossero caduti dal cielo, e ciò può spiegare il loro culto. Tali, ad esempio, le punte di lance neolitiche, lavorate con cura e che i greci di epoca più tarda identificarono con i fulmini di Zeus, così come nella campagna inglese si chiamano dardi di Elfo le frecce di Selce, o il pestello di bronzo celato nel velo del simulacro di Artemide a Efeso. I simulacri stessi, come quello di Artemide Brauronia e l'Atena in legno d'olivo dell'Eretteo, si dicevano caduti dal cielo attraverso un buco nel tetto. È possibile che l'antica statua di Braurone contenesse un coltello sacrificale in ossidiana, un cristallo vulcanico dell'isola di Melo col quale veniva recisa la gola delle vittime. La leggenda di Osiride che ara il chersoneso taurico, la Crimea, pare forzata, ma Erodoto insiste sull'esistenza di uno stretto rapporto tra la Colchide e l'Egitto, e in questo mito la Colchide fu spesso confusa con la terra dei Tauri. Si dice che Osiride, come Trittolemo, abbia introdotto l'agricoltura in molti paesi stranieri.